Capitolo 13. Una storia da romanzo. La seconda settimana di giugno vide Frank far ritorno al suo vecchio alloggio sopra il banditore d'aste. Era arrivato in tarda serata e aveva rimandato la visita alle ragazze Lorimer come prima cosa da fare il giorno successivo. Era poco prima dell'orario di apertura quando suonò al numero 20B e venne accompagnato da Matilda nello studio, dove trovò Phyllis impegnata ad armeggiare svogliatamente con il piumino. Sembrava piuttosto distratta, come capì quando si girò per salutarlo. Il suo aderente abito nero, con il rametto di tuberosa alla gola e l'ampio grembiule di tela d'Olanda con la sua pettorina dai bordi ricamati, le stavano alla perfezione. Le tinte sobrie mettevano in risalto i colori delicati della sua carnagione, che in questi giorni erano di un rosa e bianco più magnifici che mai. E come stanno le vostre sorelle? Non ha bisogno di domandare come state voi, esclamò Frank, che all'inizio della loro conoscenza si era alquanto meravigliato di non essersi perdutamente innamorato di Phyllis Lorimer. Stanno tutte bene, rispose lei appoggiandosi alla piccola mensola del caminetto del salotto e squadrando il viso abbronzato sollevato di Frank. Uno sguardo malizioso le scintillò negli occhi mentre aggiungeva: C'è una grande notizia. Frank impugnò lo schienale della sedia rossa di giunco sulla quale si era seduta a cavalcioni in una maniera piuttosto pericolosa per il suo buono stato e disse bruscamente: Bene, quale? Una di noi sta per sposarsi. Ah! Disse Frank con una specie di rantolo che non sfuggì alla sua interlocutrice. Non ha intenzione di dirvi di chi si tratta. Dovrete indovinare, continuò Phyllis, guardando furtivamente la sua reazione con la coda dell'occhio, mentre un sorriso soddisfatto le splendeva sulle labbra. Oh, comincerò dall'inizio, dichiarò il povero Frank con un'allegria alquanto forzata. È la signorina Gertrude? Phyllis giocherellò qualche secondo con il piumino, poi rispose lentamente. Dovete tentare di nuovo. È la signorina Lucy. Con uno spasmo, silenzio. No, disse Phyllis infine. Frank balzò in piedi con il volto raggiante e le afferrò entrambe le mani con sincero calore. Allora è con voi, signorina Phyllis, che devo congratularmi. Gli occhi di lei sfavillarono di un'ilarità soffocata mentre rispondeva mestamente: No, davvero, signor Jermyn? Frank mollò le sue mani, aggrottando la fronte perplesso. Poi un lampo gli attraversò la mente e venne riflesso dalla sua faccia espressiva. Deve essere Fan, dimenticò l'appellativo nello stupore. Phyllis annuì. Eppure non dovreste mostrarvi così sorpreso, disse, prendendo una sedia vicino a lui. Perché mai la povera Fan non dovrebbe sposarsi allo stesso modo delle altre persone? Certamente, solo uno sciocco come me non l'avrebbe pensato subito, rispose Frank, vago. È quasi una storia da romanzo, proseguì Phyllis. Lei e il signor Marsh volevano sposarsi anni e anni fa, ma lui era troppo povero e partì per l'Australia. Ora se la passa bene ed è tornato per sposare Fan, come il personaggio di un libro. Il toccante epilogo di un amore giovanile, non trovate? Sì, penso che sia una bella storia, è davvero toccante, affermò Frank, ignorando rigorosamente la nota di ironia nella voce di lei. Aveva tutto il dispiacere che un uomo può avere nell'ascoltare una donna parlare in maniera cinica dei sentimenti, cosa che avrebbe dovuto essere una prerogativa esclusivamente maschile. Forse, disse Phyllis, appanna un po' il quadro il fatto che Edward Marsh esca da un matrimonio, ma sua moglie è morta l'anno scorso, così è tutto a posto. Frank scoppiò a ridere e Phyllis si unì a lui. Un attimo dopo arrivarono Gertrude e Lucy a confermare la splendida notizia e i quattro ragazzi rimasero a chiacchierare finché il suono del campanello della bottega non ricordò loro che la giornata lavorativa era cominciata. Jeremy, in suo invito, tornò per cena quella sera e venne presentato al nuovo arrivato, un grande e corpulento uomo di mezza età, la cui barba folta come una foresta permetteva di farsi solo un'idea approssimativa della faccia. Per quanto riguarda Fanny, era commovente vedere come questo fiore appassito fosse sbocciato di nuovo. Quelle arie e grazie obsolete venivano baldanzosamente rimesse in gioco ed Edward Marsh, che era un'anima semplice, le accoglieva come la corretta espressione della dolcezza femminile. Lei piegava il mignolo e inclinava la testa di lato con tutta la decisione che la sicurezza del proprio successo dà ad un'azione. Dava sfogo alle sue affermazioni più illogiche, nei suoi toni più affettati. In breve si godeva appieno il suo viaggio, per citare George Eliot, nel paradiso delle donne, dove tutta la sua irrazionalità era adorabile. Non so come faranno senza di me quelle ragazze, diceva Fanny al suo amato. che accettava l'osservazione con altrettanta buona fede di quella con cui lei la credeva dentro di sé. Dovremmo cercare di stabilirci non troppo lontano da loro. E lei delicatamente metteva un punto sulla pantofola che era impegnata a ricamare con delle perline per quel cuore semplice di Edward. Fanny fu condiscendente con le sorelle in questi giorni e va riconosciuto, tale la natura della donna, che la sua importanza era aumentata considerevolmente nelle loro opinioni. Quanto al signor Marsh, egli guardava le sue future cognate con un misto di preoccupazione e perplessità che segretamente le divertiva. Mai per un istante fece vacillare la sua devozione a Fanny davanti al loro superiore fascino. Mai per un istante fece sì che una tale paura turbasse la pace mentale della povera Fanny. Solo le stesse ragazze, nel profondo dei loro cuori, si facevano qualche domanda nel vedersi considerate con la medesima quantità di interesse personale di quella che veniva accordata a Matilda. Niente affatto uno spumeggiante modello di soubrette. Gertrude, che aveva alquanto temuto l'effetto del contrasto fra il fascino appassito di Fanny e la bellezza appena sbocciata delle due sorelle più giovani, si sentì sollevata e allo stesso tempo indignata nel constatare che per quel che concerneva Edward Marsh, i capelli di Phyllis potevano essere rossi e gli occhi di Lucy di un verde brillante. Per una volta, infatti, la mancanza di senno di Fan aveva avuto successo laddove comportamenti più adeguati avrebbero fallito. Tornando per un attimo alla Fanny di 10 anni prima, con l'incarnazione, come l'incarnazione di tutto ciò che è più dolce ed essenzialmente femminile in una donna, nel fare di se stessa una verità accettata e indisputabile, inconsciamente aveva fatto la cosa migliore per assicurarsi la propria felicità. In Fanny c'è realmente qualcosa che piace agli uomini, l'ho sempre sostenuto io, commentava Phyllis mentre guardava gli innamorati navigare beatamente giù per Baker Street in una delle loro spedizioni alla ricerca di una casa. Sapete, aggiunse Lucy, che ha sempre detestato camminare da sola, perché la gente le rivolge la parola. A noi invece non ci ferma mai nessuno, vero Gertie? Non a me, non spesso almeno, disse Phyllis mestamente. Phyllis, imparerai mai a limitarti? Si lamentò Gertrude. Ma è abbastanza vero per quanto riguarda Fan. Lei deve essere quella misteriosa creatura, la donna di un uomo. Al signor Darrell piace, intervenne Phyllis dopo una pausa, e sorride con quel suo modo aperto e blando. Ma sono abbastanza sicura che gli piaccia. Spero che non voglia sposarsi prima che il mio ritratto sia terminato, ma non avrebbe importanza. Potrei andare senza essere accompagnata. No che non puoi, dichiarò Gertrude seccamente. Perché tutt'a un tratto vieni colta da questi scrupoli di convenienza? Non ho alcun desiderio di porci in una posizione scomoda, ignorando le ordinarie regole della vita. Allora chiudiamo bottega e sbarazziamoci dell'affitto. Ma Gertie, non dobbiamo discutere di questo spiacevole argomento ancora per un po'. A proposito, il signor Darrell avrebbe intenzione di chiedermi di posare per un quadro dopo il ritratto. Mi ha già dato lo schizzo. Un soggetto di una qualche opera di Shakespeare. Sono stanca di sentir nominare il signor Darrell. Vai a controllare che il tuo abito sia a posto per il ballo dei Devonshire di questa sera. A propos, disse Lucy mentre Phyllis voleggiava via per la gradita commissione, com'è che non abbiamo visto per niente Connie in questi giorni? Ha fatto molta vita di società a questo periodo, rispose Gertrude abbassando gli occhi, ma. Ad ogni modo, in compenso, abbiamo goduto della doppia presenza di Frank. Che ragazzo frivolo, si lamentò Lucy arrossendo leggermente. Mi ha addirittura fatto promettere di restare seduta con lui per 2 balli. Che spreco, quando uno morirebbe per un valzer. Oh, ci sarà il pienone di ballerini di valzer. Vorrei che tu potessi avere la mia parte. Sospirò Gertrude, che era stata persuasa dalle suppliche di Connie a promettere di prendere parte alle danze quella sera. È ora che tu metta da parte questi atteggiamenti patriarcali, Gertie. Tu desideri ballare tanto quanto noi e io voglio che tu giri in tondo come una trottola per tutta la notte. Che immagine deliziosa ha evocato Lucy. Voi, persone estrose, siete sempre pronte a trovare difetti. Per fortuna non ho estro io e ben poco senso dell'umorismo, disse Lucy con un'aria di genuina gratitudine che divertì sua sorella. Così, fra lavoro, gioco e molte chiacchierate, i giorni d'estate volarono via. Le tre ragazze trovarono la vita piena e piacevole e Fanny ebbe il suo momento. Capitolo 14. Lucy. Non c'erano dubbi sulla situazione. A uno dei tavoli con le gambe rosse sedeva Fred, le braccia aperte davanti, la faccia nascosta fra le braccia, mentre Lucy con il volto turbato gli stava vicino, lottando fra un autentico rimorso e l'irrefrenabile desiderio di ridere. Era sabato mattina, il resto della famiglia era in chiesa e i due giovani avevano avuto lo studio tutto per loro, senza alcuna paura di essere disturbati, una circostanza di cui lo sfortunato Fred si era affrettato a servirsi, facendo così precipitare il proprio destino. Avevano ora raggiunto quella fase della procedura in cui il corteggiatore respinto, giudicando le suppliche di nessuna utilità, ricorre alle manifestazioni di disperazione e biasimo. Non avreste dovuto incoraggiare un uomo per tutti questi anni, venne fuori con voce rauca da sotto la faccia e le braccia dell'innamorato affranto. Tutti questi anni? Come potete essere così ridicolo, Fred? Esclamò Lucy con una certa asprezza. Di questo passo, la prossima volta sarò accusata di incoraggiare il piccolo Jack Oakley perché la scorsa settimana a Regent's Park ho giocato con il suo cerchio. Lucy non intendeva essere scortese, ma la dichiarazione del tutto inaspettata del suo vecchio compagno di giochi l'aveva resa nervosa. Un rifiuto a discuterne seriamente le sembrava la strada migliore da perseguire. Ma le sue ultime parole, come si poteva supporre, furono troppo per il povero Fred. Balzò in piedi come colpito da un'offesa proclamata con rancore. «C'è un altro uomo!» disse. Lucy sobbalzò all'indietro come fosse stata colpita. Sangue caldo le salì al viso, lacrime le sgorgarono dagli occhi. «Cos'ha a che fare con questo?» gridò spinta alla fine alla civetteria. «Cos'ha a che fare con questo, visto che, seppure foste l'unico uomo sulla faccia della terra, non vi sposerei mai?» Fred, ferito e stravolto per questo inaspettato attacco della dolce Lucy, si chiuse in se stesso con un atteggiamento più simile alla dignità di quello che aveva tenuto nel corso del colloquio. «Oh, molto bene», disse afferrando il cappello. «Forse uno di questi giorni sarete dispiaciuta per quello che avete fatto. Non sono un granché, lo so, ma non troverete molte persone che si prenderanno cura di voi come avrei fatto io». La sua voce si interruppe improvvisamente e si diresse quasi alla cieca fino alla porta. Se un attimo prima era rossa, ora Lucy era tutta tremante e pallida. Voleva dire qualcosa mentre lo vedeva goffamente armeggiare con la maniglia della porta, ma le sue labbra si rifiutarono di formulare parole. Senza alzare la testa, Fred passò per il piccolo corridoio. Lucy sentì i suoi passi ritirata, poi il suo sguardo finì sul rotolo di giornali ai suoi piedi. «Fred! Avete dimenticato questi?» Ma non si degnò di alcuna risposta e un momento dopo la giovane sentì la porta esterna chiudersi. Stette un attimo con il ridicolo involto in mano. Tit-bits e una copia rosa spiegazzata dello Sporting Times, tra un sorriso e un singhiozzo che le affiorava in gola. I giornali caddero a terra e lei, piegandosi sulle ginocchia accanto al tavolo, nascose il volto tra le mani e scoppiò a piangere intensamente. Gertrude, tornando dalla chiesa una decina di minuti dopo, trovò la sorella così prostrata a terra. Quella visita l'agitò per la sua singolarità. Chinandosi su Lucy, le sussurrò: «Devo andarmene?» «No, fermati qui». Gertrude chiuse la chiave e la porta, quindi andò a inginocchiarsi accanto alla sorella. «Oh, povero Fred, sono stata così sgradevole con lui», pianse la penitente. «Ah, temevo sarebbe accaduto». Gertrude accarezzò la morbida testa rivolta verso il basso. Aveva paura che il pensiero di qualcun altro, oltre a Fred, giacesse sul fondo di tutto quel turbamento. Era davvero preoccupata per Lucy in quei giorni, davvero preoccupata e davvero impotente. C'era solo una persona, sapeva fin troppo bene, in grado di restituire a Lucy la vecchia dolce serenità. E quella persona, ahimè, non faceva nessun cenno. Cosa doveva pensare? Una cosa era abbastanza chiara: la cordiale relazione di un tempo tra loro e Frank era il capolinea. Per rinnovarla totalmente occorreva farlo su basi differenti. Un elemento di disturbo, un'acquisita consapevolezza si era insinuata in essa. Il fascino delicato, il bocciolo dell'innocenza si era allontanato per sempre. Era la metà di luglio ora e nelle ultime 2 settimane non avevano visto quasi per nulla Jermyn. al di là delle apparizioni fugaci mentre bighellonava per la strada con il cappello schiacciato sugli occhi, ma tutta l'irruenza di un tempo aveva perso mordente. Sul fatto che levitasse chiaramente potevano esserci pochi dubbi. Sebbene fosse stato visto guardare in direzione della casa piuttosto malinconicamente, non fece alcun tentativo per incontrarle e i suoi saluti, quando gli capitava di imbattersi nelle ragazze, erano i più formali possibile. Il cambiamento nel suo atteggiamento era stato così marcato e repentino che era impossibile scampasse a una qualche commento. Fanny, con l'aria di saperla più delle altre, divulgò come una sua convinzione il fatto che il signor Jermyn fosse innamorato. Phyllis riteneva fosse stato infiammato dall'idea di un grande dipinto e stesse subendo gli spasmi del concepimento artistico. Gertrude diceva in modo delicato che supponeva fosse di malumore e riluttante verso la società, mentre Lucy rimaneva in silenzio e indugiava su svariati ragionamenti interiori per convincersi del fatto che quella sua insolita inquietudine e quel languore non avessero nulla a che fare con l'indifferenza del loro vicino. Questi autoinganni, così attentamente intessuti, erano stati bruscamente sparpagliati dalle parole di Fred, e Lucy, inginocchiata accanto al tavolo scarlatto, aveva per la prima volta visto in faccia il suo destino e diagnosticato la propria malattia. «Lucy», disse Gertrude dopo una pausa, «sciacquati gli occhi e vieni a fare una passeggiata al parco, manca un po' per il pranzo». Lucy si sollevò asciugandosi la faccia bagnata con il suo fazzolettino. «Fatti guardare», disse Gertrude. «Quanto fascino hai! Dov'è che si trova? Perché questo genere di cose accade sempre a te?» «Oh», rispose Lucy tenendo un sorriso. «Sono una persona pratica e mediocre, e questo è tutto. Non scomodamente intelligente come te o scomodamente bella come Phyllis». Le due ragazze partirono per la strada rovente e polverosa, con quel sudore domenicale di tabacco cattivo. Regent's Park indossava la sua veste più attraente. La spenta monotonia della vegetazione di luglio assaliva lo sguardo. Una natura comunque impregnata e ricoperta della polvere e della fuliggine della città. Si sentivano fiacche e scoraggiate, consapevoli che la passeggiata si stava rivelando un fallimento. Mentre attraversavano Clarence Gate, sulla via del ritorno, Frank sferciò davanti a loro con un'irruenza simile a quella tipicamente sua, sollevando il cappello con un qualcosa di simile al suo vecchio sorriso. «Avrebbe potuto fermarsi», disse Lucy col pallore sulle labbra e abbandonando improvvisamente ogni pretesa di nascondere i propri sentimenti. «Senza dubbio era di fretta», rispose Gertrude debolmente. «Credo stia andando a pranzo a Sussex Place. I conviti domenicali da Lord Watergate sono piuttosto conosciuti». La giornata si trascinava stancamente. Era afoso e ognuna delle Lorimer si sentiva abbacchiata. Fanny stava trascorrendo quelle ore con i parenti del futuro marito, ma le altre tre non avevano impegni, così il pomeriggio oziarono piuttosto miseramente a casa. Tutti si sollevarono quando Fanny e il signor Marsh arrivarono per l'ora di cena e si sedettero prontamente al tavolo. Non erano ancora a metà del pasto quando si sentirono dei passi, inaspettati ma familiari, salire le scale. Quindi qualcuno bussò alla porta e prima che ci fosse il tempo di rispondere, la porta si spalancò per accogliere Frank Jermyn. Pareva stranamente diverso dal solito mentre si faceva avanti e stringeva la mano, circondato da un silenzio imbarazzante che ognuno di loro desiderava interrompere. Il suo volto era pallido, non più imbronciato, ma teso e impaziente, con gli occhi lucidi e le narici dilatate. «Rimanete per cena, signor Jermyn?» disse Gertrude alla fine con il suo tono più neutro. «Sì, vi ringrazio». Frank portò una sedia al tavolo come fosse in preda a un sogno. «Sembrate un estraneo», disse Fan, maliziosa e incosciente, mentre indicava con la testa il cucchiaio e il piatto dal quale gli offrì di servirsi. Frank accennò col capo che avrebbe accettato il cibo offerto, ma fece finta di nulla quanto alla sua osservazione. Cadde di nuovo il silenzio fra i commensali, interrotto dai sussurri dell'innamorato Edward e dall'ostentato fracasso di coltelli e forchette dalla parte del tavolo in cui le persone non stavano mangiando. Eccetto i promessi sposi, tutti gli altri percepivano l'elettricità che aleggiava nell'aria. Alla fine Frank lasciò cadere la forchetta abbandonando, una volta per tutte, il pretesto del cibo. «Signorina Lucy», esclamò rivolto a lei attraverso il tavolo, «ho una notizia». Lei sollevò la testa, Bianca, con gli occhi fissi che chiedevano spiegazioni. Partirò per l'estero domani. Ah, dove andrete? Chiese Fanny, vagamente sconcertata. Andrò in Africa. Non smosse gli occhi da Lucy mentre parlava. La testa di lei si era abbassata sul piatto. Hanno intenzione di mandarmi come inviato speciale del Bootcut al posto del povero Lit Point che è morto di febbre. L'ho saputo per la prima volta ieri sera e stamattina si è finalmente deciso. Questo fa una differenza enorme nelle mie prospettive. Edward Marsh, che disapprovava come Frank fosse un cucciolo viziato, dal momento che aspettava sempre che fossero le altre persone a interessarsi ai suoi affari, chiese senza mezzi termini al giovane il valore della sua nomina. Ma non ebbe alcuna risposta, perché Frank, con il volto in fiamme, era scattato in piedi, spingendo indietro la sedia. Lucy, Lucy, disse a bassa voce, non vorreste venire a parlare con me? Lucy si alzò come ipnotizzata. Prese con una presenza di spirito della quale poi rise la chiave dello studio dal chiodo e seguì Frank mentre usciva dalla stanza in mezzo allo stupore del resto del gruppo. Alcuni minuti dopo la spiegazione che ebbe luogo proprio nella stanza in cui poche ore prima il povero Fred aveva ricevuto il suo rifiuto fu abbastanza semplice. Ma perché sei stato tanto scortese nelle ultime 2 settimane? Ah, Lucy. Voi donne ci giudicate male così spesso e pensate di essere le uniche a soffrire, quando il dolore è da entrambe le parti. Quando ho realizzato come stavano le cose tra te e me, cara ragazza, mi hai detto più di quello che tu stessa sapevi. Ho riflettuto su che povero diavolo fossi, senza l'ombra di una prospettiva. Ultimamente la fortuna non mi ha assistito. E ho visto, allo stesso tempo, la situazione con Devonshire. Ho pensato, è un bravo ragazzo, lasciamogli una possibilità, in fin dei conti può essere la cosa migliore. Oh, Frank, Frank, cosa hai pensato di me? Se questi sono i ragionamenti degli uomini, sono felice di essere una donna, disse Lucy aggrappandosi alla mano forte e giovane. Bene, lo sono anch'io, rispose Frank, e quindi, naturalmente, sebbene io non appoggi la sua condotta a tal riguardo, Lucy gli riferì in breve dell'offerta di Fred Devonshire e del suo rifiuto. Si era fatto tardi prima che i due fortunati tornassero nel soggiorno a ricevere le congratulazioni per l'evento, che ormai non era più necessario comunicare. Fanny si domandava ad alta voce perché non avesse mai pensato prima a una cosa simile e forse avvertiva che la propria storia d'amore, réchauffée, veniva quasi adombrata. Phyllis sorrise e fece delle allegre battute, porgendo con garbo la morbida guancia per un bacio fraterno. Edward Marsh guardava confuso e piuttosto sconvolto, mentre Gertrude rimase sullo sfondo col cuore troppo pieno per parlare, finché i due innamorati non si avvicinarono a lei chiedendo la sua benedizione. Non giudicatemi troppo ingenuo, disse Frank con tutta l'umiltà che possedeva. Sono felice, rispose lei. Alzando gli occhi e vedendo i volti dei due giovani ardenti per lo splendore della loro felicità, tornò con un divertimento malinconico ai dubbi e alle paure delle settimane precedenti. E mentre era così assorta, scintillarono nell'anima le splendenti parole tanto familiari: Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. A tarda notte, una volta che gli ospiti erano andati via e il resto della famiglia dormiva, Gertrude sentì Lucy spostarsi nella camera di sotto. E indossata la vestaglia, scese giù. Trovò la sorella in piedi al tavolo, impegnata a scrivere una lettera alla luce della lampada. Non vai a letto, Lucy. Ricordati, devi alzarti molto presto. L'ombra dell'imminente separazione, che inizialmente sembrò solo donare una qualità più soave alla sua felicità, si posò su di Lucy. Era pallida e i suoi occhi fermi guardavano l'esterno con l'antica calma. Ma con una nuova intensità sul volto. Leggi questo. Sembrava l'unica cosa giusta, disse. Piegandosi sul tavolo, Gertrude lesse: Caro Fred, sono fidanzata con Frank Jermyn, che domani partirà per andare all'estero. Mi dispiace di essere sembrata scortese, ma ero addolorata e colpita per quanto mi avete detto. Molto presto, quando mi avrete dimenticata del tutto, verrete a trovarci, non è vero? Accettate di aver commesso un errore e non smettete mai di considerarmi una vostra amica. Lucy Lorimer. Gertrude pensò. Quindi non dovrò dirlo io a Connie, dopo tutto.